Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Questo non è un piatto. Sai una cosa, Michele? Qual è il problema? È che a te per ben 4 anni a scuola ti hanno chiuso la porta in faccia e tu sei rimasto a fissare la porta chiusa senza riuscire a vedere quella che ti era stata aperta. Questa qui, che doveva esercitarmi molto di più. Credi, era spalancata la porta. Sposta lo sguardo. Stai andando a piangere? Quale profondo istinto masochistico avrà spinto questo concorrente Michele Ghedini a farsi dare una lezione di vita da Carlo Cracco? Che di mestiere fa il cuoco? Onestissimo mestiere, fantastico mestiere, che fa la reclame delle patate fritte che faranno schizzare il fegato probabilmente a mangiarne in dosi industriali, però fa talmente tanto il raffinato che dice tu non hai studiato, come se fosse un antico professore di estetica, di etica, di filosofia, di scienze matematiche. Umilia questo ragazzo, probabilmente ha impiattato male, ha scambiato la cipolla con l'aglio, ha fatto soffriggere troppo il sughetto, non so che abbia fatto. Lui sente una bestia, un animale, come un allievo discolo, come Franti ai tempi del libro Cuore. Almeno quell'infame aveva la dignità di sorridere. Questo se ne va con la coda tra le gambe, nel ludibrio generale. Perché? Perché ha fatto male il soffritto. Cosa ci sta accadendo? Riparte Masterchef, saranno tutti a guardare lì improvvisamente i cuochi che maltrattano dei poveri cristiani che stanno lì e dimostrano la loro dignità di esistere, la loro capacità di cucinare. Ma vi siete resi conto che oggi il cucinare, la cucina, il cibo è al sommo di ogni nostro più lussurioso immaginario? Provate a uscire con una donna, voi che ancora avete l'età, il tempo e la gagliardia per poterlo fare. Fra una testa così, sul posto ve la portate a mangiare. Mentre state lì e mangiate, mentre c'è qualcuno che già vi suggerisce nelle orecchie quello che state mangiando, perché ve lo deve dire prima, come è stato fatto, come è stato coltivato quel grano, da dove viene quel grano, per fare quella pagnottina che sta a fianco di quel manicaretto, lei vi rincoglionirà con quello che c'è di bellissimo da mangiare in giro per il mondo. Già vi sentite un verme, perché non l'avete portato sul ristorante abbastanza. Uscite con degli amici, non fanno altro parlarvi di mangiare. Dove andiamo a mangiare? Che facciamo? Che si mangia? Andate a mangiare con gli amici. Mentre mangiate c'è sempre qualcun altro vi suggerisce un altro posto e si mangia un'altra cosa. E non vi potete nemmeno gustare quello che mangiate perché intanto si parla di mangiare. Il mangiare è dappertutto. Il mangiare ha sostituito ogni nostra pulsione, ogni nostro desiderio. Si vive per mangiare. Ma via per mangiare cosa? Non si sa bene. Qualcosa di indefinito, qualcosa di etereo, qualcosa che non ha più un senso, non ha più una provenienza, non ha più una consistenza. Qualcosa che passa attraverso delle linee dell'immaginario che noi non controlliamo più. Cosa si mangia? Il nulla. Si fa mangiare, oggi sono mangiato in un ristorante bellissimo. Cosa si mangiava? Cose al vapore. Cosa al vapore? Già pensi qualcosa che assomigli al metafisico e già di quello devi essere contento, devi essere felice. La domanda che faccio oggi, vi rendete conto o ci stiamo rendendo conto che in effetti stiamo dando al cibo, alla qualità del cibo, alla cultura del cibo che esiste senz'altro, il cibo ha una sua cultura, una sorta di preminenza rispetto a ogni altra forma di cultura. Ci stiamo imbarbarendo naturalmente. Ogni coatto, ogni burino, ogni villano, ma villano nel senso vero della parola, colui che aveva il vello sull'ano, come diceva una volta, quindi è una persona bruta, brutale. Lo vedete al ristorante, prende il bicchiere del vino, lo guarda in trasparenza, lo impugna con due dita, come una volta non si pugnava nemmeno, non lo so, una bacchetta di rettore d'orchestra. Ci saranno dei bicchieri ergonomici ad essere impugnati da intenditore del vino. Passa mezz'ora e poi vi dice tutto su quel vino. Perché? Perché ha fatto il corso di sommelier. Cosa fa? Scusate, l'indignazione mi risveglia la tosse. Cosa si fa? Finito il lavoro, voi direte che bello, finito il lavoro, boh, si va a spasso, si va in palestra, si va uomini, si va donne, si va animali da cortile, si fa qualcosa di divertente che ci appaghi, che ci rilassi, no, si va a fare il corso di cucina, si va a fare il corso di sommelier, per fare cosa? Per assatanare le persone quando vengono a casa tua, fargli vedere quanto sei bravo a cucinare. 800240024, cosa ne pensate della cultura del cibo? Non vi ha stancato? A tra poco. Melog, Cronache meridiane. Cucinare è un'arte. E quando cuciniamo dobbiamo ricordare che anche l'occhio vuole la sua parte. Così come un bel dipinto viene valorizzato dalla giusta cornice, anche il cibo acquista importanza se rappresentato al meglio, nel piatto adeguato. In primo luogo, ricordati che più il piatto è grande, maggior risalto dà la pietanza che contiene. Puoi giocare con le forme, ma evita di esagerare con i colori o le fantasie. Piatti troppo decorati tendono a sminuire l'impatto visivo dei cibi. A proposito, nel preparare i tuoi piatti, non badare solo al colore del cibo, ma anche alle sue forme. Possiamo muoverci su tre dimensioni, quindi non appiattiamo le nostre presentazioni distribuendo eccessivamente gli alimenti sul piano, bensì creiamo dei volumi. L'anima inquieta di Beppe Facciolaro si starà dimenando nel suo luogo d'oltretomba dicendo: ma quanto erano belli i tempi in cui mettevo sotto al naso alle persone qualcosa di commestibile, buono, da mangiare. Quelli mangiavano, bevevano, si divertivano, era già il preludio di altri piaceri. No, invece oggi è tutta l'attenzione sulla confezione del piatto. Nemmeno fosse Raffaello, questo signore, spiega in realtà la dimensione tridimensionale addirittura del cibo. Franco La Cecla, buongiorno. Buongiorno. Franco La Cecla è un antropologo, fra i suoi ultimi saggi posso citare Elogio dell'Occidente, Eleutera 2017 e Babel Food, Contro il cibo cultura, edizione Il Mulino dell'anno passato. Cibo cultura con la K, come cultura nel senso più deleterio o allo stesso tempo aulico. Allora, innanzitutto, Franco La Cecla, lei è d'accordo sul fatto che la cosiddetta cultura del cibo si sta inghiottendo e sta mangiando tutto ciò che prima attribuivamo un valore culturale? Ma sì, cioè, sicuramente c'è un'invadenza terribile da parte di questa ossessione mondiale nei confronti del cibo, che deve essere buono, che deve essere bello da vedere, che deve essere giusto, che deve essere secondo i criteri che la gente cerca. Cioè, c'è un'ossessione identitaria, cioè uno deve essere vegetariano, deve essere vegano, deve essere qualche antipesce, insomma. Stanno nascendo dei sostituti della religione attraverso delle sottodimensioni del culto del cibo. Siamo vegani, abbiamo capito, il veganesimo ormai è una religione, ma siamo anche resistenti al glutine senza essere celiaci, questo naturalmente è un'altra scelta. Prendiamo soltanto cibo crudo e ci piace soltanto, che ne so, qualcosa che è legato alla frutta. Gente mangia soltanto frutta, gente mangia cose non cotte e soltanto, che ne so, abbattute. Non ho capito bene. Sono tante scelte che hanno sostituito le scelte religiose. Sì, questa cosa di fondo che sei quello che mangi è il più grande equivoco del mondo. Non siamo quello che mangiamo. Quindi siamo anche quello, ma siamo tante altre cose. Cioè l'ossessione è un'ossessione medico-religiosa quasi, nel senso che alla base di questa ossessione c'è l'imperativo di cambiare la tua vita. Per l'ennesima volta, cioè devi cambiare la tua vita e come la cambi? Mangiando in maniera diversa. Perché se devi cambiare la tua vita significa darti una cultura, diventa raffinato, diventa competente. Cioè quello che è successo al cibo è quello che è successo alla salute. Cioè noi ci affidiamo a delle persone che si chiamano medici, che ci dicono loro se stiamo bene o male, così come ci affidiamo a delle persone che si chiamano chef, che ci dicono loro cosa è buono e cosa non lo è. Già la categoria degli chef immagino si stia attirando per il fatto che stiamo deprezzando la loro qualità, ma non vogliamo fare, che in questo momento ci sembra assurdo che arbitri del livello di cultura, di esistenza, di dignità di esistenza di un essere umano siano chef, e in base a come lo impiatta e come inforna viene definito se un essere umano degno di esistenza o non degno di esistenza. Massimiliano, buongiorno. Buongiorno signor Nicoletti. Io chiamo da Frosinone, quindi sono un ciociaro abituato, diciamo, alla buona vecchia cucina, quella del fagiolaro che citava prima. Però io la metterei su un'altra angolazione, perché ormai si cerca il sensazionalismo e la moda in ogni cosa. Vabbè, questo è sempre stato così. Un sì, prodotto... ma adesso questi chef, io ad esempio faccio il paragone, io vedo sempre Masterchef, vedo i Masterchef Australia. E si sente in Italia... colpa lei che faceva i suoi vecchi fagioli nell'antica maniera, come li faceva suo nonno, suo padre, suo bisnonno? Ma no, non mi sento assolutamente in colpa, però mi sento in colpa quando per esempio sento delle lucubrazioni, delle offese a delle persone che cucinano in queste, per esempio, trasmissioni in maniera, ad esempio, troppo semplice. Mentre per esempio se vede MasterChef Australia si cerca sempre il bello del piatto, anche nella sua semplicità e nella sua... Quindi lei che è del mestiere, Massimiliano, nota una differenza, quindi cominciamo a selezionare come una sorta di difetto nazionale, questa sorta sì, di ipercultura del cibo. Nel difetto nazionale si cerca sempre la cosiddetta, diciamo, estremizzazioni in ogni cosa che facciamo. Dobbiamo mangiare? Ecco che escono i 3.000 problemi sul cibo. Dobbiamo vestirci? Ecco il... Ma fermiamoci sul cibo. Fermiamoci sul cibo. Luca, buongiorno. Luca? Nicoletti, secondo me lei ha fatto indigestione. Guardi, ho mangiato sera. Una mela ieri sera, le dico. Perché... mi sa che allora è un boccone amaro. Non ma no, amaro, sto benissimo. Erba. Vabbè, ma che c'entra? Perché questo accanirsi sulla cucina non capisco. No, ma accanisco sugli idioti che fanno la cucina la loro ragione di vita, questo sì, non sulla cucina. Ma io però vedo un segno di evoluzione, di consapevolezza, sì. Perché fino a poco tempo fa la gente poteva mangiare qualsiasi cosa, carne, verdura, così, e non badava da dove proveniva tutto quanto. Adesso secondo me la filiera... E si è arricchita e la gente fa più attenzione a quello che mangia, semplicemente. Io adesso, piuttosto che prendere un pollo di allevamento, preferisco un pollo ruspante allevato a terra. Grazie al piffero, mi scusi, è un altro sapore, lo so bene. Io sono nato con i polli ruspanti. E questa cosa qui, quando semmai dopo viene un mio amico a casa mia e dice ma questo pollo è eccezionale, non è che io mi voglio vantare perché sono bravo a cucinare il pollo, ma perché gli spiego anche che se tu vai a prendere un pollo di un grande allevamento intensivo e tutto quanto, la carne sarà piena di acqua, estrogeni, roba varia, invece di un pollo allevato a terra da un è un altro argomento, quello che sta dicendo lei, se permette, è un altro argomento, è rendersi conto che in realtà molto del cibo che viene industrialmente confezionato perché tutti possiamo mangiare non è un cibo che ha una qualità come il cibo che eravamo abituati quando era qualcosa di molto più esclusivo, una gallina che razzolava nell'aia e si cibava soltanto delle granaglie ha un sapore diverso rispetto alla gallina infilata e gonfiata dentro un allevamento, non è proprio esattamente questo il senso. Franco Lacerra, vediamo, riusciamo a chiudere un pochino più l'argomento. Io credo che la grande differenza è che appunto è che la cucina tradizionale, quella nostra italiana, era una cucina non era una cucina da osservare, da studiare, da mangiare da soli, era una cucina conviviale. Cioè la grandissima differenza è che in questa ossessione per il cibo c'è un solipsismo bestiale, cioè un onanismo, diciamo, sì, la verità, cioè è una forma di pornografia. Infatti la gente non a caso fotografa il piatto, no? Uno dei selfie più frequenti nei social network, qualcuno fotografa questa mattina la mia colazione, un'aranciatina col cornetto, certo. E fa vedere quello, certo. come se il mangiare non fosse comunque un fatto intanto di convivialità, cioè di stare insieme agli altri. La gente parlava molto meno del cibo perché sapeva che era una scusa per stare insieme. Quindi, e tra l'altro in Italia soprattutto, dove c'è una cultura incredibile dello stare insieme a tavola, no? Questo si sta perdendo. Stiamo dando a delle persone che si chiamano chef qualcosa che era invece una cultura con una competenza diffusa, che è quella della telefonata di un attimo fa. Cioè noi siamo competenti delle cose buone o non buone, e lo siamo anche senza parlare, cioè noi sappiamo distinguere un pane se fatto bene o male come italiani, come il pollo ruspante, come dice giustamente l'ascoltatore. Stiamo perdendo tutto questo in base a dei criteri che sono assolutamente non culturali, cioè che non hanno, dove la cultura è lo stare insieme ad altri, altre persone. Quindi stiamo spostando la nostra socialità nel culto del cibo. È diventato un culto, come una cosa, quasi un'adorazione mistica. Diventa l'argomento, come se fosse una grande dieta teologica. Quando ci si vede assieme si parla, come si parlava del sesso degli angeli, si parla della consistenza della sgaloppina che abbiamo davanti. Gabriel, buongiorno. Gabriel? Sì, pronto, eccomi. L'ascolto. Sì. Dunque, io sono un medico e sono sommelier del terzo anno, ho fatto anche l'abbinamento cibo-vino, sono membro dell'Accademia della Cucina qui di Ancona, vice delegato regionale. Ora, io dico questo. questo. Il cibo è senz'altro l'alimento che ci permette, è il sistema che ci permette di sopravvivere, e questo fa un corso inconfutabile. Il cibo però è anche cultura, cultura di capire quello che noi siamo abituati a mangiare, a cosa appartiene, se appartiene alla tradizione, se appartiene all'innovazione, se appartiene a qualcosa di necessario che dobbiamo assolutamente ingurgitare per sopravvivere. Però esiste anche il cibo spettacolo. Purtroppo la linea è molto fatiscente. Riassumo fra un istante quello che dice il nostro ascoltatore. Dice: in realtà esiste una cultura del cibo, noi in realtà ci stiamo battendo contro la massificazione. Quando la cultura diventa un fenomeno di massa, smette di avere un valore culturale, non ci fa evolvere, non ci fa capire niente, diventa semplicemente un esercizio di ammorbidimento delle coscienze. Perché guardate che ci fermiamo tanto a riflettere sull'impiattamento di quello che abbiamo davanti, ci dimentichiamo sicuramente la persona con cui dividiamo quel piatto e soprattutto lo scopo profondo per cui l'abbiamo invitata a mangiare qualcosa assieme. A tra un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Melog, cronache meridiane. Egregio signore, noi in data odierna ci siamo degnati di venire in questa misera casa, al cospetto di lei che in fondo, sebbene danaroso, è un disgraziato. Principe, sarebbe per me un grandissimo onore avervi a... Averci? Averci? Dai, parla, averci. A pranzo con noi. Che offesa! Che offesa! Noi non siamo abituati a mangiare. Non siamo abituati a mangiare con persone che non sono del nostro rank. Pazienza. Comunque non mi sembra il caso di rassegnarsi. Rassegnarsi è una vittà. Bisogna insistere. In fondo, anche noi nobili abbiamo uno stomaco. Un cuore. Un cuore nello stomaco. No, a fianco. A fianco. A sinistra. A sinistra, appena si esce. Il cuore nello stomaco. Va bene. Voi con la testa, cosa ne pensate? Per farvi piacere. E voi, principe? Accettiamo. Nell'idea accettiamo dei valori distribuiti nelle varie classi sociali, Felice Sciosciammocca nel 1890, quindi Totò, che era un morto di fame vero, di quelli veri proprio, che sognava il cibo perché era morto di fame, quando deve interpretare l'aristocratico e va a casa del cuoco arricchito, lo tratta con questa distanza, con questa altezzosità, cioè non vede l'ora che gli porti gli spaghetti, si butteranno poi sulla tavola a mangiare come 70 generazioni di morti di fame possono fare. Ma in realtà il cuoco arricchito, si meritava il loro disprezzo, perché era un cuoco, loro erano degli aristocratici. Come si permette di invitarli a cena? Franco La Cecla, ricordo, antropologo. Tra i vari libri oggi parliamo di Babel Food contro il cibo cultura, edizione Il Mulino, e oggi cerchiamo di lanciare una crociata di incivilimento, se possibile, e affrancamento a quella che è la follia del cibo. Si parla soltanto di cibo. Qualcuno mi sta scrivendo: gli italiani parlano soltanto di cibo perché non scopano più. Può essere che questo sia il motivo, ma non è oggi che vogliamo creare quali sono state le lacune per cui si parla soltanto di cibo. Oggi devo dire che una forma tarocca di affrancamento dall'inciviltà, dalla rozzezza, dall'ignoranza, dalla banalità di pensiero, dalla mancanza di articolazione, dall'incapacità di porsi problemi e domande su anche le più banali cose, viene sostituita dal corso di cucina, dalla capacità di definire il manicaretto, dalla capacità di riempire lo spazio vocale fra le persone che si devono relazionare con descrizione di cibo. Franco La Cecla. Il morto di fame che rinnega il cuoco. Ma era bella questa cosa del fatto che il cuore è nello stomaco, no? Questa cosa della sostituzione. Appunto, io potrei dire che, insomma, veramente non siamo nati per soffriggere, questo si potrebbe dire. Quindi, in qualche modo, cioè, la cosa terribile è che è come se ci fosse una specie di appiattimento delle passioni, che è tutta legata all'idea di fondo che c'è una che possono oggettivabili nei piatti. piatti, no? Cioè, la cosa grave dell'innalzamento della cucina oggi a cultura è l'idea di fondo che il cibo sia una cosa oggettiva e non soggettiva e non legata allo scambio tra le persone, no? Cioè noi abbiamo in Italia una grandissima cultura del cibo, che è una cultura della mamma, che è una cultura familiare, che è una cultura regionale. Il grandissimo successo nel mondo del cibo italiano è che noi abbiamo una grandissima diffusione della competenza, no? Che, cioè, da noi non sono importanti quelli che cucinano, sono importanti quelli che consumano e che dicono se è buono o non è buono, cioè il contrario dei chef, che capiscono la differenza. È il contrario, cioè nel senso che, cioè, noi siamo un popolo di eravamo un popolo di competenti che giudicava se le cose erano fatte nella maniera giusta. Però, appunto, ci morirà questa nostra competenza genetica, perché sarà soffocata dagli impiattamenti e dai soffritti che vediamo fare a MasterChef. Certo, e soprattutto perché in qualche modo stiamo scambiando le relazioni dirette, no? Con una relazione indiretta, cioè lo chef è uno con cui non possiamo parlare, che è chiuso in cucina, mentre invece la mamma, forse uno se cucinava, se friggeva male, glielo poteva anche dire. Soprattutto se una cosa ci fa schifo, non lo possiamo dire, è talmente alto il suo livello di competenza. Sarebbe stato come all'università dire a un professore che si sbagliava. Certo. Nessuno ha mai osato. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Il suo punto di vista? Ma il mio punto di vista è un punto di vista di chi lavora direttamente nel settore ed ha contatto sia con gli chef e con le persone al tavolo, perché faccio il cameriere tutti i giorni. Quindi è l'anello di congiunzione fra il Sancta Sanctorum, dove sta lo chef, e il tarocco, sì, conoscitore di cibo. La terra di mezzo. Mi dia qualche tipologia di espertoni di cibo. Ma gli espertoni di cibo, devo dire che ce n'è di tutti i tipi, da chi fa il finto sommelier a chi magari chiede se un piatto è troppo unto o troppo fritto o non so. Io lavoro in un ristorante che rispetta molto la tradizione locale, e per dire, uno dei piatti che va maggiormente è il classico merluzzo fritto con la cipolla. E allora la gente mi chiede, ma è fritto, e dove è fritto e come è fritto, perché se veniva fritto nell'olio d'oliva c'è il punto più alto e... Cioè la cracchite ha colpito anche fra i clienti del merluzzo fritto del suo sì, ha colpito tutti. Poi c'è chiaramente anche la persona che invece, leggendo nel menù dei piatti del proposto del giorno, vede il merluzzo fritto e va in estasi, non gliene frega niente e ne ordina anche due porzioni. E poi c'è chiaramente quando magari un cliente contesta qualcosa e la riporta indietro allo chef, è facile che lo chef diventi... fa una scena isterica, si strappa i capelli. Sì, le scene isteriche in cucina sono l'ordine del... Senta, lei da quanti anni fa questo mestiere? Da quanti anni fa? Ma io ormai tra bar e ristorante saranno una decina d'anni. Ecco, com'è cambiata l'area in cucina? Si sentono un po' fighe veramente quelli che stanno lì a fare gli chef rispetto al resto delle maestranze che lavorano nella macchina di un ristorante? Sì, perché comunque quando chiediamo qualcosa di particolare allo chef, delle volte si rifiuta anche di farlo perché va contro i suoi principi, ecco, diciamo così. Come uno stilista che dice, ma no, che orrore, questa cosa non la farò mai. Quando uno gli dice, mi fai una giacca che ci possa entrare dietro anche al mio sedere, perché se me la fai troppo stretta poi ho delle difficoltà di respirazione. No, questa cosa non la farò mai. Diciamo che secondo me hanno degli orizzonti limitati, non vanno oltre. O se no mantengono forte, diciamo, il carisma della loro professione, quindi non disperdono il loro segreto professionale. Luciana? Sì, pronto? Sì. Sono in linea. Allora, ho chiamato perché ho un vecchio libro di Bocuse, la Cuisine du Marché. E questo Bocuse, un 3 stelle, diciamo famosissimo, ha rilasciato un'intervista e ha detto quando gli italiani... Famosissimo, è arrivato Cannavacciuolo, è scomparso, non se lo ricorda più nessuno. Com'è? Dico, è arrivato Cannavacciuolo, chi se lo ricorda più, Bocchiglio? Insomma, diciamo che tutti quanti quelli che si intendono di cucina internazionale sanno che Bocuse è il cuoco più importante francese. Certo. Allora, dopo Ratatouille. No, guardi, allora stiamo parlando di Bocuse, se si può parlare di Bocuse. No, non vorrebbe stemmiare, mi scusi, veramente, le do ragione. Allora, stiamo parlando di cultura. E quindi Bocuse è una pietra miliare. Detto questo, Bocchese ha detto: quando gli italiani avranno la consapevolezza della ricchezza della loro cucina popolare, per la Francia sarà finita. E in che anno lo disse Bocchese questa cosa? Lo disse in un'intervista, l'avrà detto penso 20 anni fa, quando è evidente ancora questo... ha parlato della la cuisine du marché. Cioè lui andava al mercato e diceva che il più grande cuoco è quello che alla sera ha il frigo vuoto, perché al mattino va al mercato e prende solo quello che è importante. Detto questo, io devo dire, questo mi fa un complimento, perché la mela che ho mangiato ieri sera è l'unica cosa che c'era nel mio frigo. Mi sento un cuoco sopraffino. Sentiamo la Cecla, perché è importante, stiamo toccando degli universi veramente. Bocchese aveva capito, lo conosci, cioè una cosa fondamentale, cioè è vero, cioè ormai nel mondo la cucina italiana ha superato quella francese, nel senso che se uno doveva portare a cena a New York un'amica, prima la portava in un ristorante francese, adesso la porta un ristorante italiano. Questo perché la cucina italiana non è mai stata una cucina di ristoranti, è nata come cucina domestica, ed è questa la sua grandezza, o come cucina di mercato, nel senso che c'era un rapporto molto forte tra i mercati e i posti nei mercati in cui si mangiava. Quindi questa cosa però questa cosa aveva anche una parte, diciamo, domestica, che è la sua grandissima ricchezza. La straordinaria ricchezza italiana è la varietà, cioè il fatto che uno che io sono palermitano, se mi offrono la pasta con le sarde fatta alla catanese mi offendo. No, perché effettivamente per me mangiare significa quello. Poi devi mangiartela a Palermo. Certo. Se la mangi qui a Roma è già un'altra cosa. E lo so, infatti. Però insomma, per noi c'è anche una geografia straordinaria, cioè il cibo ha una storia minutissima di luoghi, e questa è la cosa magnifica, ed è una cosa legata molto a come è fatta l'Italia. Vorrei fare una citazione, sembrerà banale: abbiamo trasformato il cibo in un non luogo, quindi a questo punto abbiamo perso la dimensione anche geografica. Il cibo non è più geolocalizzabile, se non nei palinsesti delle televisioni, dove sono i grandi chef che fanno vedere quelle cose che non hanno né inizio né fine. Ma pensiamo per esempio che per un italiano l'idea di fondo è che c'è un ristorante che italiano è ridicola, nel senso, noi non andiamo in un ristorante, andiamo a un ristorante sardo, un ristorante abruzzese, però l'idea del cibo italiano è un'assoluta astrazione che non esiste, no? Esiste, c'è il sushi pizza. Sì, può esistere forse in qualche posto all'estero, può esistere, però la cosa straordinaria è che noi non ci crediamo che c'è una cosa generale che chiami, mentre invece Bocuse era una cucina francese. Patrizia, buongiorno. Buongiorno, mi sente Nicoletti? Certo, volentieri. No, perché ce l'ho in viva voce, che se no... Tolga la viva voce, però adesso lo tolga, sente male. Beh, vada avanti, Patrizia, la sentiamo. Sì, io sono una cuoca di casa, la gente mi prenota per venire a mangiare da me, ma quello che noto è di... Cioè al nero parla, lei ospita persone a mangiare a casa sua? Sono un'associazione. E quello che noto nelle persone, sulle domande che mi fanno su questo tipo di cibo, che è la poca consapevolezza di ciò che sono, di ciò che è un umano e di come un umano dovrebbe rapportarsi a delle leggi, diciamo, di questa terra, di questo pianeta, nel rispetto del cibo. Cioè sono leggi divine, allora entriamo nel campo dei tabù alimentari. Se c'è una legge... No, lei prima parlava di una sostituzione religiosa. Sì, ne sono convinto. Perché sono convinta anch'io, ma questo perché non si ha una coscienza propria di che cos'è forse una scelta religiosa, di che cos'è l'umano, di che rapporto. Adesso lei mi sta facendo quasi una lezione metafisica, ma quasi un maestro zen che mi spiega esattamente come comportarmi. Non me lo aspetto da un cuoco, sinceramente, o perlomeno non lo richiedo a un cuoco. Ho messo fuori di casa mia il televisore 5 anni fa. Ha fatto male, tanto... e manca una dimensione dell'umanità. No, mi informo, ascolto Radio 24, quello fa benissimo. Computer, insomma, mi informo e ascolto molte cose. Sì, ma che c'entra adesso con quello che diciamo noi? Scusi Patrizia, andiamo alla noce del problema. Allora, la consapevolezza, perché la gente, secondo me, ha molta paura, di mangiare male, ha paura di ammalarsi, ha paura di avere un tumore, queste cose qui, allora cerca nel cibo un qualcosa che lo protegga. Beh, quello che, come, quando uno va a pregare San Gennaro, la stessa cosa, proteggimi, salvami dalle malattie. Inerente al televisore, come diceva lei, è che io quando mi capita di vedere negli zapping a casa degli altri Masterchef, mi vergogno di queste trasmissioni, perché le parole che usano sono veramente gravi. Vi faccio un esempio di una bestemmia che ha sentito Masterchef rispetto alla sua religione. Offendono tipo, veramente. Tipo. Non, ora. Impiattamento. Io la parola impiattamento l'ho imparata guardando la televisione, non sapevo che esistesse. Guardi, anche nella cucina che cucino io c'è un'armonia di impiattamento, nel senso che noi mangiamo una zuppa, normalmente è un piatto unico, ma in questo piatto unico ci devono essere degli equilibri tra i cibi che lei mangia. Vabbè, ho capito, siamo lo yin e lo yang, ho capito, guardi, è una cucina metafisica, mi sta bene, va benissimo, però nel ristretto circolo della cucina della signora Patrizia, dove vado io con alcuni eletti perché voglio toccare con un dito l'illuminazione del sacro fagiolo, mi sta bene, ma come fenomeno di massa mi fa sorridere, fermiamoci un istante, tra poco. Faircam Air and Ocean non conosce confini, spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo, faircam.com. Vi presenta... Melog, cronache meridiane. Mai un piatto con un solo colore, cioè il risotto giallo, non potete mandarlo fuori col giallo del riso e nient'altro. 2-3 colori servono sempre, poi non 99, perché quello poi diventa un albero di Natale, ma 3-4 colori è opportuno che ci siano, 3 è il minimo. Il monocolore è un disastro sotto l'aspetto psicologico per l'ospite che dovrà mangiare quel piatto. Poi se è marrone siete distrutti, che è la cosa peggiore in assoluto. Un piatto tutto marrone. No. Qualcosa ci deve essere. Scusa, la cerca, ma se io mangio una zuppa, fagioli, il piatto marrone è fondamentale. Sì. Ma anche le lenticchie sono marroni. Ma anche il cioccolato è marrone. Tutto sommato. Cioè, puoi fare un elenco di piatti marroni da leccarsi baffi. Che c'entra che il marrone non può apparire nel piatto? Sta male, perché non è un colore preciso, né carne né pesce. Ma la maggior parte, scusa, anche lo stufato è marrone. La bistecca è marrone. La salsiccia è marrone. Non dà consapevolezza il marrone, probabilmente. Ma sì, il 90% dei cibi sono marroni. E lo so, ma probabilmente prima e dopo, nella assoluto. Contemplazione del piatto non dà consapevolezza, il marrone non ti restituisce. Quindi con il giallo ci vogliono almeno altri due colori, cioè, giallo-rosso, sono romanista, non lo so. Sì, insomma, è follia pura. Cioè, follia pura, sì. Ma poi la gente ci crede, poi la gente, vedi, come il fagiolo metafisico, che vuole dire la signora prima, secondo te? No, ma questa cosa tremenda che uno debba pensare quello che sta mangiando mentre mangia. Secondo me è come pensare che uno sta camminando mentre cammina. Ma è una liturgia, però. Ma si cade se uno pensa mentre cammina che sta camminando. Così come ci si affoga, poi si perde completamente il senso. Cioè, adesso, appunto, Roland Barthes diceva che rispetto al sesso il cibo è un piacere, però mentre il sesso ha una progressione e poi arriva a un culmine, il cibo ti piace, però poi tutto continua uguale, alla fine non è che c'è, insomma, basta. Grazie a Dio non ti innamori, non ti rimani male, non c'hai problemi. Non è una prova del fuoco sempre, mangi, via, hai mangiato, ti bevi il digestivo e riprende la vita. Così dovrebbe essere. Invece è una coda lunga. Marco, buongiorno. Buongiorno. A parte, certamente, questi eccessi nell'estetica del cibo che io in effetti respingerei, però vorrei spezzare una lancia a favore del cibo, che in fondo è la nostra ultima ancora di salvezza. Una volta è vero che in convivialità con gli amici si parlava di progetti, si parlava di viaggi, si parlava di lavoro, e adesso che cosa rimane di tutto questo? Più delle volte sofferenza, parlare di qualcosa che riguarda il futuro fa paura. E quindi che cosa di meglio parlare ci si butta del cibo? Butta sul cibo, dice, secondo lei. Sì, il cibo è l'eterno presente, no? È la cosa che godiamo di più del nostro presente. E quindi, visto che parlare del futuro è diventato doloroso, comunque pericoloso, anche nell'ambito di un gruppo di amici, con i propri figli, con i propri parenti, è sempre un argomento ormai pericoloso, perché ci sono troppe insidie. Poi Marco, mi dà ragione su un fatto, forse sono un osservatore poco attento. Oggi le comitive si uniscono fanno un gruppo WhatsApp, dove andiamo a mangiare domani, e tutti fanno le proposte, c'è quello che fa il cibo, chi vince porta tutti gli altri. Appena ci si è da tavola si comincia a parlare, la prossima volta dove andiamo? Ah, vi porto io in un posto, e passa la serata allucinando il prossimo incontro. Ma provi a riflettere, qual è l'unico argomento che non provoca ansia? Certo, è quello. Sì, sì, non dà problemi, sempre lì sta. Parliamo di economia, parliamo del lavoro che non c'è o che rischia di finire, parliamo dello. Quindi diciamo i nostri genitori, i nostri nonni stanno sotto i bombardamenti, nei campi di concentramento, salvavano l'ansia parlando di cibo che non avevano. Probabilmente sì, anche, certamente, è che ormai le prospettive sono al brevissimo termine e che il cibo è il piacere immediato. Non ci resta che mangiare. Franco Lascelli. Pensate se dell'ultima cena avessimo la discussione che Gesù ha fatto con i suoi discepoli su cosa stavano mangiando. Com'era il vino? Sì, com'era, ma com'era? Oh. Ma magari c'era pure, però il punto è che... Simone, com'è il vino? Buono, maestro! Però magari invece questa, cioè quella ovviamente era una scusa per stare insieme. Poi magari c'erano anche cose buone, però non è che noi abbiamo, il Vangelo non ci racconta che insomma la qualità dei cibi che mangiavano non era la cosa più importante, no? Giusto quando moltiplica il vino, capito? Dice, oh, il prima davi il vino buono, poi giusto, certo, l'unico accenno, certo, è quello. Certo. Beh, poi sicuramente era un buon gustaio, però il punto è che non era la chiave, cioè non, tra l'altro, devo dire, lì non è una cosa da poco che un'intera religione così importante sia costruita intorno alla convivialità, no? Ma non intorno al cibo. Beh, diciamo che il valore, uno dei valori del cristianesimo è quello di tabuizzare comunque dei punti comuni e via dicendo, quindi al cibo non vi ha dato questo carattere forte, religioso, di luogo di liturgia. Oggi siamo una società laica, abbiamo recuperato una spontanea e autonoma tabuizzazione che poi ci porta all'immanenza pura, come ho detto anche quello prima, non porta a nessuna parte, non è che c'è trascendenza. Parliamo di cibo perché non abbiamo altro da dirci, non abbiamo altro di cui parlare. Beh, però è triste come soluzione. Sì, certo. Però devo dire, non è vero che non porta ansia, perché poi in realtà la gente è preoccupatissima per quello che mangia. Quando uno va in Italia, legge nelle uova: queste uova sono state covate da Maria la gallina e da Elisabetta l'altra gallina, che sono mai state maltrattate da questa coppia che alleva le galline senza mai toccarle, cioè ormai... Ma lo dici come facezzo, è vero? No, è vero, cioè c'è una rassicurazione, cioè se uno va il packaging è una narrazione in cui dice a me le contadine mi dicevano, mi portano l'ovetto la mattina, ce lo tieni ancora caldo, tirato fuori dal culo della gallina. Beh, anche quella è una narrazione. Comunque insomma, cioè questa narrazione che deve essere assolutamente, mi raccomando, non hanno subito nessuna violenza e soprattutto si amano molto i due allevatori che stanno facendo questo mestiere. E anche le galline che fanno l'uovo, essendo due vaiole, si amassero fra di loro, si aprirebbero degli scenari assolutamente indicibili riguardo a quelli che sono i cani. Sentiamo velocemente Mario. Mario, cosa deve dire? Mario, sono io? Sì, non so. Che ne so quanti Mario ci stanno in figlia? Pieno, il nome è più difficile. Si chiama da Dispoli. Cosa deve dire? Appena iniziata la trasmissione, complimenti per la trasmissione, hai detto la cosa più bella di oggi. Cucinare è un'arte. Esatto. Hai detto, cucinare è un'arte. Vabbè. È vero. È vero, Mario. Io ho fatto il cuoco per quasi 40 anni. Quindi lei è un artista. Non ho mai letto un libro, perché uno chef che mi diceva sempre, Mario, i libri chi li scrive? Mica un cuoco, c'è un gastronomo che va là in giro, scrive... Ma lei andrebbe a Masterchef a posto di Cracco, di questi famosi? No, non mi credo, quelle trasmissioni in TV non le vedo mai. Perché non le vedo? Perché i ceretti polizieschi. Ascolta, perché ti dico che cucinare è un'arte? Circa 30 anni fa ero in vacanza a Sidi Marina. Sì, guardi, sta finendo il tempo. La sua vacanza... Esatto, due minuti. È due minuti, no, cioè 20 secondi. Ero aspettato mezz'ora, dai. Dico, ero in vacanza a Sidi Marina, no? D'estate c'era un gruppo di Milano che voleva mangiare tutti i costi da zuppa di pesce. Sì. Ma una pensione costa la zuppa di pesce, no? Poi il principale mi ha chiesto, Mario, per favore, loro pagano tutto il pesce, ma fai vedere, l'ho fatto io, hanno fatto le fotografie, dico, hanno fatto le fotografie, sono soddisfazioni, Mario, sono quelle cose che segnano la vita, segnano la vita di un essere umano. Mario ha fatto la zuppa di pesce nella pensione a Silvi Marina, si è sentito realizzato. Certo, per i milanesi. Per i milanesi, che qualunque cosa gli dava tanto erano contenti. Certo. Vabbè, abbiamo concluso, alla prossima.